got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Ah, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of, that's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Questa sera cena ebraico-romana, carciofi alla giudia, che è il nome di un piatto meraviglioso che conoscerete tutti, è il titolo di un libro pubblicato da poco per Mondadori dalla nostra Elisabetta Fiorito. Benvenuta Elisabetta. Buonasera, buonasera radioascoltatori, Valentina. Allora, giornalista politica di Radio 24 che i nostri ascoltatori conosceranno bene per le tue cronache parlamentari, no? Sei anche un'appassionata di teatro, hai preso anche un premio di drammaturgia e ora scrittrice, sorpresa. Beh, dopo che passi la tua vita 8 ore, anche 10, a Montecitorio, hai bisogno di evadere un po' da quello che è la politica italiana, no? E quindi ti metti a scrivere. Devo dire la verità, mi sono chiesta se fosse elegante parlare di una collega, di un libro di una collega proprio della radio nella trasmissione. Però devo dire che la qualità del libro, il fatto che davvero sembra scritto per Indovina chi viene a cena, perché è uno spazio dedicato alla cucina, all'identità, alla migrazione, ed è il tema del tuo libro, no? Con leggerezza e ironia, questi temi sono i temi anche del tuo romanzo. Certo, allora è un romanzo che prende spunto dal piatto principe della cucina giudaico-romanesca ed è il carciofo alla giudia ed è un carciofo che viene dalla campagna romana, sono le cosiddette mammole perché sono viola, sono senza spine, viene tagliato a forma di rosa e poi viene adeguatamente pulito e fritto in olio bollente e le foglie del carciofo diventano una sorta di patatine fritte, molto buono. Ti sei preparata? No, certo, dovendo scrivere... Ti avrei chiesto il piatto. Sì, ora non so come riuscirei mai a cucinarlo perché lo sapeva fare mia madre molto bene. Io generalmente li faccio alla romana, però devo dire che quando si va al ristorante a Roma e è periodo di carciofi, consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di chiedere un carciofo alla giudia che si trova ovviamente nei ristoranti tipici del ghetto, ma si trova anche in tutta Roma. In questo libro si parla molto di piatti, di cibo, di ricette, perché si parla molto di identità e di incontri tra culture e identità diverse. E quindi abbiamo il couscous di Tripoli, invece che appunto i piatti romani più tradizionali, e i piatti, come tu ci raccontavi, ebraici. Perché tutto ruota intorno a una coppia, Rosa Maria, che è una regista teatrale, e Davide, che è un commerciante, lei è razionalista, e invece lui è di Tripoli, ebreo di Tripoli, e mangia piatti rigorosamente concessi dalla religione ebraica. Sì, è un romanzo, quindi c'è anche una storia d'amore, però è un romanzo che ha la tavola come protagonista, perché un po' ci sono le regole dell'alimentazione ebraica, no? Mangiare kasher, cioè solo alcuni piatti sono consentiti, e un po' c'è l'unione di queste due culture, perché la cosa che mi divertiva è che ogni volta che si legge un romanzo che ha a che fare con l'ebraismo, uno pensa sempre a questi piatti della cucina ashkenazita, come il gefilte fish, che è una sorta di carpa cotta in agrodolce, e invece qui troviamo dei piatti che sono arabeggianti, per cui abbiamo il couscous, il felfel, perché peperoncino si dice felfel, poi ci sono la haraimi, che è questo pesce fatto con le spezie piccanti, un pesce fatto con il pomodoro e il cumino e il carvi, e il peperoncino e l'aglio, una cosa buonissima. E ho voluto anche spiegare quali sono le usanze proprio degli ebrei tripolini, le mafrum, le polpette di carne con patate, cavolfiore o carciofo, che vengono poi fritte, ripassate nel pomodoro e servite con il couscous. Insomma, ci sono una serie di tematiche che mi interessava proprio per far capire come la cucina poi è trasversale, no? E mette d'accordo un po' tutti. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Sì, la cucina è trasversale, è anche però terreno di scontro fra le varie culture. No, capita anche nel tuo libro che un po' si litiga anche sulla l'origine di alcuni piatti. Eh certo, perché allora intanto proprio perché ci sono queste regole molto strette della cucina ebraica, la famiglia di Rosa Maria, che è cattolica però un po' agnostica, antipapalina, sai, queste famiglie classiche romanesche, mm-hmm. No? Che chiaramente osteggia questa figlia che oramai mangia tutto kasher, la madre è bravissima, si zitta a fare un po' da questo assoggettamento. Immaginati una madre che magari faceva la matriciana più buona del mondo, la carbonara più buona del mondo, dove il maiale è fondamentale, il guanciale, no? Perché mm-hmm. si parla del guanciale, della guancia del maiale, si ritrova con una figlia che magari fa: ma facciamo la carbonara kasher, che è buonissima, però ovviamente al posto del maiale si mette la carne secca, e al posto del pecorino, perché non si può mischiare carne e latte, si mette magari la zucchina fritta. Eresia! Cioè, per una madre romana bella verace, dice: ma come, mia figlia si è rimbambita, si direbbe a Roma, ecco. E quindi è un terreno di scontro nelle diverse culture. Lì si capisce veramente che molto spesso ci sono delle difficoltà. Dalla Russia al Maghreb, dalla Spagna all'Italia, la cucina ebraica raccoglie sotto a un'unica definizione ricette tipiche dei paesi molto diversi. Le tradizioni sono diversissime e non hanno nulla in comune a livello di sapori, ma condividono tutte, e da migliaia di anni, le stesse regole, quelle della kasherut. Kasher significa letteralmente adatto, permesso, e contraddistingue tutti i cibi che possono essere mangiati dagli ebrei osservanti e le regole giuste per cucinarli. Non sono kasher il maiale, i pesci senza squame, i crostacei, ma anche le ricette che mixano latte e carne. Le regole della kasherut sono decine e riguardano la scelta degli alimenti, la macellazione degli animali, la conservazione e la netta separazione fra carne e latte. Facciamo una piccola pausa, ma torniamo subito a parlare con voi o con te di questo romanzo, Carciofi alla Giudia. Un cordiale saluto da Armando Torno, musica maestro di questa settimana. Sarà in collegamento con l'Università di Roma, in particolare con il professor Franco Piperno, che vi parlerà di un libro recentemente da noi concepito e recentissimamente uscito, dal titolo Musiche nella storia, dall'età di Dante alla Grande Guerra, realizzato da un gruppo di docenti della Sapienza con l'intento di proporre al lettore una riflessione sulla collocazione delle musiche nella storia nel periodo indicato. A risentirci dunque domani sera alle 21:15. Un cordiale saluto da Armando Torno. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro! Ve lo giuro! Questa sera siamo con Elisabetta Fiorito, la nostra collega che ha scritto un romanzo che sembra scritto apposta per Indovina chi viene a cena, Carciofi alla giudia, per Mondadori Editore, un po' come nel film da cui noi prendiamo spunto Indovina chi viene a cena. Questo è un incontro tra due culture diverse e vengono tutti spiazzati, anche le due famiglie di origine, no? Certo, si potrebbe dire indovina chi viene al pranzo di Ferragosto, per dire, no? Perché a un certo punto Rosa Maria, in mezzo al romanzo, decide che a Ferragosto tutti quanti saranno a casa al mare, al Circeo, sì. Quindi in una località marina vicino a Roma. Pollo e peperoni, se non sbaglio. E la madre di Rosa Maria vuole fare il menù tipico, caratteristico dei pranzi romaneschi, che era un menù che andava bene negli anni 60. Ora stroncherebbe chi chiunque, perché si fa le fettuccine col pomodoro, tanto per iniziare, poi il pollo con i peperoni, una cosa leggerissima, e poi il cocomero, quindi uno diventa, che è l'anguria in italiano, no? Però a Roma si dice cocomero. Allora, che succede? Rosa Maria, cercando di unire le due tradizioni, decide di fare questo menù, e però dice alla madre, intanto, le fettuccine senza parmigiano, perché non si può mischiare carne e latte. In più, i polli li fa venire da Roma, perché prende i polli dalla macelleria Kasher, vuol dire che sono stati dissanguati, no? C'è un procedimento particolare per quanto riguarda la carne che si vende nelle macellerie Kasher, ma anche nelle macellerie halal, no? Allora i genitori di Rosa Maria vedono questi polli e la prima cosa che dicono: ma sti polli, parlando un po' in dialetto, perché altrimenti la battuta sì, non si capisce. Ma sti polli, dove l'hai presi? Sembrano un po' pallidi, perché chiaramente essendo dissanguati, cioè, sono pallidi. Allora, lei, mentre cucina questo pollo, spella i peperoni, no? Mettendoli a bruciacchiare al forno, ognuno che entra in questa cucina gli ripete: ma sti polli sono pallidi, perché non l'hai presi dalla signora che qui c'ha i polli ruspanti? Insomma, e questa cosa va avanti per un certo periodo. Devo dire che rende bene l'idea del romanzo, che è un romanzo appunto di una storia d'amore, di un incontro fra culture diverse, ma molto ironico, con dei toni molto divertenti e divertiti, no? Spesso ci sono questi scontri di civiltà, fra virgolette, su questi temi, e Rosa Maria, che ha molta pazienza, devo dire, molta pazienza, cerca di tenere assieme tutto. Ma anche perché lei dall'altra parte ha la suocera. La suocera Yolanda. Yolanda si prepara allo Shabbat dal lunedì. Questa è veramente vita vissuta, perché mia suocera fa così, che nella vita si chiama in un altro nome, però, capito? Lei si prepara dal lunedì e da lunedì comincia a dire quello che deve cucinare. E la cosa bellissima è che questi pranzi che lei fa sono o tripolini o italiani, ma mai romaneschi, perché lei ovviamente ha due menù: uno tripolino, che è quello appunto con il couscous, con la shashuga, che è un piatto che si tipico israeliano, medio orientale, che sono uova in padella con cipolla, aglio, sugo di pomodoro e peperoni e salsiccia di manzo. Anche no? Questo è un po' come il pranzo di Ferragosto dei Romani. Sì, sì. E si dice anche in giudaico, romanesco, abbiamo fatto una bella shashuga, vuol dire abbiamo fatto un po' di casino, no? Cioè abbiamo combinato un disastro. Oppure fa, per esempio, l'agnello. No, l'agnello non lo fa perché oramai non piace più a nessuno. Questa è la coratella, è un altro terreno di scontro del libro. Però fa magari lo spezzatino di vitella, insomma, le patatine fritte, queste cose italiane. Ma la suocera non sa che cos'è la frittura di Paranza, perché anche se la frittura di Paranza è kasher, perché sono tutti pesci con la spina e le squame, lei non l'ha mai mangiata perché non la facevano a Tripoli, no? E quindi c'è tutto questo meccanismo, no? E magari la madre, tutto questo parlare di cibo, che è un parlare di identità, in realtà conservare una parte della tradizione di cosa siamo stati. Ma quanto c'è di te e della tua storia nel romanzo? Perché ci facevi capire che qualcosa c'è. E certo, allora, questo romanzo è nato ovviamente è una storia di fantasia, però un pochino di cose autobiografiche ci sono. Io sono sposata con un ebreo tripolino e chiaramente, venendo da una famiglia abbastanza agnostica, romanesca, alla fine mi sono resa conto che lo scontro era proprio sul cibo, perché mi ricordo una bellissima volta che sono andata con mio fratello, ora questo non c'è nel romanzo perché questa è vita vissuta, a fare jogging, e mio fratello faceva: ma a che cosa gli importa a Dio se tuo marito mangia le cozze e le vongole? Perché un altro divieto nella cucina ebraica è quello che il pesce deve, per essere consentito, deve essere solo con la pinna e con le squame, con la spina e con le squame. Quindi, insomma, le cozze, le vongole, i molluschi, le aragoste sono vietate. L'aragosta è dura, Valentina, è molto dura. Sono consentite, ecco perché, sono piccole, con la spina e con le squame. E quindi uno dei, per esempio, dei piatti della cucina giudaico-romanesca sono le alici con l'endivia. Sono delle cose particolari, no? Che si incrociano e si scontrano. Quindi quando poi a un certo punto si va a tavola, alle volte è un po' difficile, soprattutto se questo avviene nel periodo di Pasqua che è appena passato, di Pesach, dove non solo ci sono i divieti normali della cucina kasher, ma ci sono anche divieti per la Pasqua ebraica, perché per 8 giorni non si mangiano lieviti di nessun tipo, quindi si mangia solo riso e pane azimo, perché gli ebrei, lasciando l'Egitto, non fecero in tempo a far lievitare il pane. Ecco, immaginati che cosa succede nel pranzo di Pasqua, quando si apre il libro. Che poi la Pasqua coincide, no? Per le due, certo, religioni, però il concetto della Pasqua è totalmente diverso, e mi verrebbe da dire anche l'interpretazione della religione è totalmente diversa. Privarsi di tutto per gli ebrei, un trionfo della gola per i cattolici o agnostici più italiani. Quindi è lì, no, lo scontro fra le due mentalità. Sì, anche perché ricordiamo che la nostra Pasqua, cioè la Pasqua cattolica, era una Pasqua che era abbondante perché si veniva da 40 giorni di Quaresima. Ora la Quaresima non la fa più nessuno, tranne chi è religioso, perché non voglio assolutamente offendere nessuno. E il resto cerca di fare la dieta perché poi arriva la Pasqua. Quindi a un certo punto, quando si faceva la famosa colazione pasqualina che si faceva al ritorno dalla messa, no? Si andava a messa e c'era ogni ben di Dio. A quel punto c'era il salame corallino, c'era la torta al formaggio, insomma c'erano la colomba, le uova di Pasqua, le uova, di tutto e di più. Era perché si veniva da 40 giorni in cui si era osservata una dieta abbastanza rigida per ricordare insomma la morte di Gesù. Oggi non è più così e quindi si mangia solo, no? Diventa un po' cicciottelli, no? Perché comunque è difficile poi mettere un freno a quello che è la gola. Dall'altra parte invece gli ebrei, per loro è completamente opposto, quindi è molto difficile. E c'è un punto del tuo romanzo in cui questa difficoltà raggiunge il suo apice durante il Kippur, no? Addirittura si separano i due innamorati in questa circostanza. Sì, allora il Kippur, che ecco anche qui anticamente anche i cattolici, no, facevano il digiuno il venerdì santo, no, o il mercoledì delle ceneri. Gli ebrei è invece una tradizione che continua ed è molto forte, e sono 25 ore di digiuno. Questo qui avviene tra settembre e ottobre, e in queste 25-26 ore di digiuno non si mangia e non si beve. Quindi è molto dura. Si fa una cena prima del tramonto del sole, perché tutte le festività ebraiche iniziano al tramonto e finiscono al tramonto del giorno dopo. Quindi si fa una cena prima del tramonto del sole e poi si va al tempio, in sinagoga, a pregare. Si ritorna a piedi, perché non è consentito accendere luci, non è consentito usare apparecchi elettronici, e il giorno dopo un po' di ore, si riva al tempio e verso il tramonto cessa Kippur, e a quel punto c'è la cena dello sdigiuno, che inizia con il caffè. Nelle case tripoline inizia con il caffè e con una limonata e i biscotti con l'anice da intingere dentro la limonata, e poi inizia la cena vera. È molto bello, infatti io dico sempre, io anche a Kippur cerco di stare un po' a dieta, fuggo però e questo è chiaramente un momento in cui siccome è il giorno dell'espiazione, quindi è un giorno in cui una persona deve fare i conti con quello che secondo lui non ha fatto di corretto durante l'anno, è un giorno molto importante, è un giorno di riflessione. È chiaro che io generalmente sto a casa, ma cerco di evitare di dar fastidio il più possibile. La protagonista del romanzo, Rosa Maria, invece emigra e va dalla madre, che figurati quante gliene dice: ah, ma come, credi ancora a queste cose, no? E quindi si ritrova in un Kippur forzato, in cui anche lei paradossalmente c'è una svolta nella storia, avrà il suo giorno di espiazione, tant'è vero che a un certo punto penserà è stato anche per me un Kippur, no? Quindi ognuno espierà in qualche modo in questo momento clou del libro, che sarà però molto importante sia per la protagonista, sia per il protagonista, e sia poi per il procedere della storia, e che porta poi al finale. Ecco, non voglio svelare nulla. Tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. C'è tutta l'Italia di oggi nel libro, che tu racconti, devo dire, molto bene, la fai sentire molto bene. Un'Italia che vive dei fasti, no? Nel ricordo dei fasti degli anni 60, e dove tutto sommato si arranca un po'. Si arranca un po' ed è fondamentale che, per esempio, i protagonisti non abbiano lavori che hanno a che fare, che ne so, con lo Stato, no? Cioè, la famiglia di Rosa Maria aveva un mobilificio che è chiuso, poi David è commerciante, ha dei negozi di abbigliamento, no? A Roma, e quindi questa crisi, Rosa Maria fa la regista teatrale, quindi ha un problema anche con i tagli al FUS, al Fondo Unico dello Spettacolo, la crisi vissuta da persone che erano o imprenditori o piccoli commercianti, e che è stato un momento molto molto duro, soprattutto nel 2014, quando è ambientato questo romanzo, no? Che è stato proprio il momento di picco più basso. Poi finalmente è iniziata la risalita, che ancora però stenta, come sappiamo, no? Questo, diamo le notizie tutti i giorni su questo. Ecco, in questo magari stringersi attorno a un tavolo, ad una tavola anzi, e mangiare insieme, cucinare insieme, c'è un momento appunto fondamentale in cui Rosa Maria decide di fare uno Shabbat romanesco e chiama la mamma per cucinare i carciofi alla giudia, perché la suocera non li sa fare, e si mettono lì a friggere insieme, e finalmente, dopo un romanzo di scontro, loro due si riescono a capire proprio mentre cucinano, madre e figlia. Ecco, molto sullo sfondo c'è questo fratello scomparso. Sullo sfondo c'è questo fratello scomparso e sullo sfondo c'è la crisi. Però anche nel momento peggiore della crisi, invece di separarsi, io volevo dare questo messaggio: bisogna unirsi, e magari un piatto da cucinare insieme ti fa sentire più vicina che fare tanti discorsi. Carciofi alla giudia. Ingredienti per 4 persone. 8 carciofi romani o mammole. Un limone, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Preparazione. Prendere i carciofi ed eliminare prima le foglie esterne più violacee, poi la parte dura del gambo. Versarli in una ciotola piena d'acqua e limone e lasciarli a bagno per 15 minuti a testa in giù. Togliere i carciofi dall'acqua, scolarli, asciugarli e condirli internamente con sale e pepe. Quindi adagiarli dentro una pentola grande piena d'olio extravergine caldo, ma non bollente, per 20 minuti circa o fino a quando non saranno abbastanza morbidi. Togliere i carciofi dall'olio, scolarli e metterli a testa in giù su un piano, spingendo leggermente in modo che le foglie si aprano senza spaccarsi. Lasciarli raffreddare. Versare olio extravergine di oliva in una padella, farlo riscaldare e friggere i carciofi uno alla volta, prima a testa in su e poi a testa in giù, in modo che si friggano uniformemente per massimo 2 o 3 minuti. A cottura quasi ultimata, bagnare le mani e spruzzare dell'acqua nella padella in modo da regalare croccantezza ai carciofi, che vanno infine tolti dalla padella e messi ad asciugare su carta assorbente prima di essere serviti. Ti cito in una frase che mi ha fatto sorridere molto: la vita si era fatta difficile in Italia, il populismo avanzava, ma per fortuna Dio aveva creato gli ansiolitici. E per fortuna aveva creato anche i carciofi alla giudia, mi viene da dire. Sì, ma poi si parla... La coratella con i carciofi. Sì, sì, no, allora, sì, per chi è appassionato di cucina, poi io ho fatto un piccolo glossario alla fine di termini e di piatti giudaico romaneschi, per cui si parla appunto del tershi, che è la salsa piccante speziata con la zucca, del selk, che è una sorta di spezzatino che si fa con la bieta, quindi è verde con i fagioli bianchi e la bieta, c'è appunto la lubia, che è invece uno spezzatino di manzo con cumino e sugo di pomodoro, e anche qui con un preparato di bieta e spinaci. Ci sono le bistille, che sono delle crocchette di patate fritte buonissime, Valentina, con la carne speziata con la cannella, perché a Tripoli un'altra cosa stranissima, la carne si accoppiava con la cannella, cioè la cannella si metteva anche sulle cose salate. Delizia, delizia. Grazie Elisabetta Fiorito per averci raccontato un po' di questo romanzo, che vi invito davvero a leggere, è molto piacevole e interessante. Carciofi alla giudia, per Mondadori Editore. Grazie Elisabetta. Grazie a voi. Grazie anche a Roberta Frisani in regia per la collaborazione tecnica. A tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao, buonanotte. You've got to give a little. That's the glory of love.